in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come avete sentito già nel nostro giornale radio, primeggia sulle prime pagine dei giornali la vicenda del Quirinale, l'addio di Napolitano previsto appunto per dicembre. Dal Corriere della Sera, titolo più importante, titolo come si dice di apertura. Così Napolitano lascerà il Colle, a dicembre l'annuncio, poi le dimissioni a gennaio, Grasso supplente per 15 giorni. L'articolo di apertura del Corriere della Sera, del quotidiano di Via Solferino, è di Marzio Breda. Ve ne leggo qualche riga. L'ipotesi che Giorgio Napolitano lasci il Quirinale entro fine anno è più che fondata e potrebbe realizzarsi con questi tempi. A fine dicembre il preannuncio delle dimissioni, poi nel giro di qualche settimana l'addio formale. Da quel momento scatterebbero i 15 giorni previsti per la convocazione delle Camere e l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, e scatterebbe anche la supplenza da parte della seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Grasso. Il Premier, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha commentato: così Napolitano è una garanzia per tutto il Paese, non mi preoccupo delle voci. Ancora in prima pagina dal Corriere della Sera, le vicende di Bologna, l'assalto dei centri sociali all'auto di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in un parcheggio appunto alla periferia nord di Bologna. Salvini si era fermato a valutare le condizioni di sicurezza per entrare nel vicino campo Rom, dove una settimana fa c'era stato già un episodio segnalato dai giornali: una ragazza rom aveva schiaffeggiato una consigliera comunale proprio della Lega Nord, e gli antagonisti, cioè i centri sociali, hanno tentato di bloccare l'auto. L'autista poi ha accelerato rischiando di travolgere i contestatori, colpiti più volte parabrezza e cofano, è stato sfondato con un casco anche il vetro posteriore. Restiamo sulle vicende del Quirinale con Repubblica, che ha un titolo analogo a quello del Corriere della Sera: via alla battaglia del Quirinale, tre dossier per il dopo Napolitano sul tavolo di Palazzo Chigi, pressing di Renzi, resti. Grillo attacca, così si ricatta il Parlamento, e Forza Italia che chiede che il successore sia condiviso. Anche in prima pagina di Repubblica, questa volta con fotonotizia, La vicenda di Salvini, di Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord. Salvini assalito tra i rom, bastardi è la parola virgolettata appunto attribuita allo stesso Salvini, che completa il titolo. Ancora in prima pagina di Repubblica le vicende in Messico, l'orrore dei narcos, bruciati vivi 43 ragazzi messicani desaparecidos dal 26 settembre, che i sicari dei narcos, narcos che fanno riferimento a questa sigla di Guerreros Unidos, dicono di aver ucciso e bruciato. Le famiglie però non credono alla versione raccontata dal procuratore generale: vogliamo risultati ma con delle prove. E poi annuncia in prima pagina Repubblica la caccia al califfo nero, c'è un raid da parte degli Stati Uniti sul capo dell'ISIS, o IS come preferisce scrivere Repubblica, cioè lo Stato, si fa per dire, insomma Stato, ma insomma il gruppo islamico integralista, che come sappiamo appunto si è reso protagonista sia di vicende belliche in questi tempi, sia di efferati delitti e delle decapitazioni. Restiamo ancora sulla vicenda di Napolitano con un altro giornale, questa volta è il Messaggero. Colle e Italicum, tavolo unico, si rafforza, scrive il Messaggero, l'ipotesi di dimissioni a fine anno di Napolitano. Il Partito Democratico lo definisce un garante, Forza Italia resti, Renzi spinge per un accordo sulla riforma elettorale e per una, è virgolettato, successione ordinata. C'è poi in prima pagina sul Messaggero una vicenda tutta romana, che però sta interessando anche la stampa nazionale. Si tratta delle multe non pagate, presuntamente non pagate, dal sindaco della capitale Ignazio Marino. Multe non pagate, Marino denuncia, falsificati i miei dati. Il sindaco parla di una intrusione nei computer per manomettere i permessi della ZTL, della zona traffico limitato, e l'opposizione dice: ma se è falso allora vogliamo le dimissioni. Il sindaco della capitale, annuncia appunto il quotidiano romano, Ignazio Marino denuncia un falso dossier sul caso delle presunte multe non pagate, sollevato dall'opposizione. Dice Marino: qualcuno è entrato nei computer del Campidoglio per manomettere i permessi della ZTL, della zona traffico limitato. Il centrodestra da parte sua accusa, dice c'è una girandola di versioni contraddittorie su questa vicenda, e dice: ma se non ci sono state le intrusioni appunto denunciate dal sindaco Marino, allora chiediamo le dimissioni. Non c'è pace, poi ci ricorda il Messaggero, sulla vicenda dei test di medicina. Sono già pronti 6.000 ricorsi, potenziali ricorsi, precisa già in prima pagina il Messaggero. Il caos dei quiz sbagliati, lo ricorderete, appunto un disguido, un errore di correzione nei test di medicina, porta appunto, secondo quello che scrive il Messaggero stamattina, a 6.000 potenziali ricorsi. Li avevano annunciati subito dopo le prove, questi aspiranti specializzanti in medicina. Ora passano ai fatti, ci sono già 500 ricorsi che sarebbero scritti, e contro sostanzialmente il grande pasticciaccio del primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione. Quindi questa prima prova nazionale potrebbe lasciare dietro di sé, commenta il Messaggero già in prima pagina, non solo uno strascico di polemiche, ma anche appunto una vicenda giudiziaria di cui si faticherà probabilmente a vedere la fine per un bel po' di tempo. Il quotidiano nazionale Il Giorno decide di dare il suo titolo più importante non alle vicende che riguardano il Quirinale, le dimissioni di Napolitano, oramai appunto date per più che un'ipotesi secondo il Corriere della Sera, ma alla vicenda invece del segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Salvini assalto annunciato, dice il quotidiano nazionale nella sua prima pagina, correda questo titolo con una grande foto e spiega: a Bologna appunto il segretario della Lega Nord accredito dei centri sociali al campo Rom, pestato un nostro giornalista, polemiche sulla sicurezza. La Padania chiude, la Padania come altre testate politiche colpite appunto dalla crisi e anche dalla revisione degli stanziamenti in materia. Abbiamo ancora un minuto prima di fermarci per le informazioni meteorologiche, allora vi segnalo che cosa proponiamo questa mattina in prima pagina sul Sole 24 Ore. Parliamo di fondi europei, ci sono 17 miliardi che vanno spesi in 14 mesi. Come sapete, l'Italia non brilla purtroppo per un utilizzo tempestivo ed efficace dei fondi comunitari, e questa mattina ricordiamo sul Sole 24 Ore appunto questa strada in salita per il piano 2007-2013. Ci sono ancora 17 miliardi da spendere in soli 14 mesi, sembra paradossale, ma è così, cioè c'è un problema di fondi che non vengono spesi. E poi ancora si ricorda sul Sole 24 Ore di questa mattina che domani, lunedì, scade il termine per presentare le misure di rafforzamento patrimoniale da parte delle banche. Gli istituti che sono stati bocciati agli stress test sono pronti a ricapitalizzare. In primo piano. Ancora una buona domenica, bentornati alla nostra rassegna stampa. Stavamo commentando le prime pagine nella prima parte di questa rassegna stampa, ma vediamo ora anche qualche notizia che magari non ha trovato spazio già direttamente nella prima pagina dei quotidiani di questa mattina. Ad esempio questa convergenza davvero in attesa da un certo punto di vista tra la CGIL, il sindacato della CGIL e la Lega. Perché? Perché la CGIL annuncia, lo leggiamo nelle pagine del Corriere della Sera, che voterà il referendum della Lega sulla abolizione della riforma Fornero. Il Carroccio ringrazia, scrive il Corriere della Sera, andiamo oltre gli steccati, e poi i sindacati insieme per la manifestazione dei dipendenti pubblici che vanno verso lo sciopero generale. Vi leggo qualche riga dal servizio del Corriere: sciopero generale più vicino, adesione della CGIL al referendum della Lega per l'abolizione della legge Fornero, sono le novità emerse ieri dalla manifestazione unitaria del pubblico impiego, rivendicando il successo della giornata. Secondo gli organizzatori erano in 100.000 in piazza Roma, è andata meglio del previsto. CGIL e CISL e UIL sono stati unanimi nell'affermare che ora la palla è al governo. E poi Più oltre si legge anche del referendum anti-legge Fornero e Camusso che dichiara: nel momento in cui la Corte Costituzionale ammettesse la consultazione, la CGIL sarebbe favorevole, in quanto ciò determinerebbe per il governo un tempo entro il quale abolire una legge ingiusta. Il quesito, ci ricorda una scheda che corre da questo servizio del Corriere della Sera, il quesito che chiede di abrogare la legge Fornero è la riforma del lavoro che è entrata in vigore a metà dell'anno 2012, è uno dei 5 referendum su cui la Lega Nord ha raccolto firme. Lo scorso 4 novembre la Corte di Cassazione ha certificato che la quota delle 500.000 firme necessarie appunto per avviare la consultazione è stata raggiunta. Adesso in dicembre è atteso il parere della Corte Costituzionale. Se anche dalla Corte Costituzionale ci sarà una via libera, allora il voto potrebbe essere nella primavera del 2015. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre in territorio, come dire, economico. Dal Sole 24 Ore di questa mattina, in seconda pagina, il decreto legge sblocca Italia. Il decreto legge sblocca Italia, varato più o meno 2 mesi fa dal governo, è stato finalmente convertito in legge definitiva, quindi le misure in esso contenute sono complete, sono pienamente valide e stabili nel nostro ordinamento. Adesso bisogna farle diventare efficaci, come spesso accade. Il problema dell'attuazione, problema che, come sapete, il Sole 24 Ore sorveglia molto attentamente anche con il nostro servizio, il nostro simbolo di rating 24, cioè la quantità appunto di decreti mancanti per dare piena attuazione alle leggi. Nel caso dello Sblocca Italia c'è la necessità di varare 35 provvedimenti di attuazione. Il Premier Matteo Renzi ha promesso rapidità. Il ministro Lupi fa sapere di aver già distribuito 1.700.000.000. Tra l'altro, lo Sblocca Italia è quel provvedimento che contiene anche quella misura per cui viene ridotta l'IRPEF, viene ridotta la tassazione per chi acquista una casa per poi affittarla, e tra le altre cose ci sono invece misure per le grandi opere, con finanziamenti appunto per le grandi opere ferroviarie e misure anche per le concessioni autostradali. Un tema che serpeggia, potremmo dire, tra le pagine dei vari giornali è stato sollevato proprio dal Sole 24 Ore, proprio da noi, nei giorni scorsi. Già se ne parlava dall'estate, ora è diventato in qualche modo una cosa più concreta. Di che si tratta? Si tratta della rivalutazione, presunta rivalutazione delle pensioni. Come sapete, una parte della pensione, meglio del montante, cioè dei contributi che si versano, è collegata all'andamento dell'economia. Poiché l'economia non va bene e il PIL non segna una crescita, questo si tradurrebbe, poi dirò perché uso questo condizionale, non in una rivalutazione, ma in una rivalutazione negativa, o se preferite in una svalutazione. Cioè, in pratica, le pensioni, i contributi versati quest'anno per le pensioni, anziché dare in qualche modo origine a un interesse, per dirla in modo semplice, si vedranno invece ridotti di qualche parte di punto percentuale. Parliamo di 0, naturalmente, ma l'effetto è evidentemente molto fastidioso già in una congiuntura, in un momento difficile per le pensioni complessivamente. E allora, questa mattina Matteo Prioschi sul Sole 24 Ore fa un po' il punto sulle vicende delle pensioni future, parla di 4 scogli. Da una parte appunto queste rivalutazioni negative, continuiamo a usare questo prudente binomio, anche se suona un pochino paradossale, ma proprio per dire che potrebbero ancora esserci i margini per impedire questa svalutazione di fatto. Poi c'è l'annunciata tassazione del TFR, se distribuito appunto subito in busta al lavoratore, comporterebbe anche, come abbiamo visto, un aumento però del prelievo, e poi l'aumento della fiscalità sui fondi pensione e sulle casse dei professionisti. Tutto questo rischia, sintetizza il titolo che accompagna il servizio di Matteo Prioschi oggi sul Sole 24 Ore, di ridurre i nostri futuri assegni. Le quattro schede ci ricordano appunto, ad esempio, che sul problema delle rivalutazioni è necessaria una soluzione tecnica ma anche politica, perché in questo modo, se, e sarebbe la prima volta, i contributi versati dai lavoratori saranno rivalutati in negativo. Questo perché appunto il PIL, il prodotto interno lordo, determina per il va male, non cresce, e quindi determina per quest'anno un tasso di rivalutazione, si fa per dire, di meno 0,19%. E poi appunto quello che vi leggevo, il TFR in busta paga. I fondi pensione che dovranno fronteggiare, stando alle intenzioni del disegno di legge di stabilità, una tassazione più elevata dal prossimo anno, e la stretta sui rendimenti delle casse di previdenza private, sono quelle casse appunto che gestiscono le pensioni obbligatorie, il primo pilastro, di avvocati, commercialisti, farmacisti, notai, giornalisti e così via. Sono le casse cosiddette privatizzate dagli anni 90 e appunto fanno le veci dell'INPS per quanto riguarda queste categorie. Resto ancora qualche momento sul Sole 24 Ore di questa mattina, perché c'è un progetto industriale per Pompei, ce lo dice Mariano Maugeri. Industriali in campo per Pompei, c'è un piano delle imprese per rendere più accogliente l'area fuori dalle mura e sconfiggere così il turismo mordi e fuggi. C'è una cordata che è pronta a costruire dei resort a 5 stelle in un'area di 60 ettari, in modo da trattenere una parte dei milioni di turisti che visitano gli scavi. Una presenza che è sostanzialmente costante, c'è una grafica che ci ricorda quanti sono i visitatori dell'area, quanti sono stati in questo secolo, cioè dall'anno 2000 fino all'anno 2012. C'è, pur con andamenti un po' altalenanti anche degli anni post-crisi, sempre un superamento dei 2 milioni di turisti annui nell'area comprendente Pompei, Ercolano e poi Stabia e Bosco Reale. Però il soggiorno in Pompei dura in media 1,9 giorni, cioè non arriva a 2 giorni di media, quando la media nazionale dei turisti è invece di 3,8 giorni. Quindi il problema di trattenere, di valorizzare al meglio quest'area unica al mondo e peraltro nota anche in tutto il mondo, sta muovendo le imprese locali, e non solo quelle locali, a costruire delle strutture adeguate all'intorno di Pompei. Di tutto questo ci riferisce appunto l'inchiesta di Mariano Maugeri, che trovate sul Sole 24 Ore di questa mattina. Tra l'altro Pompei è anche destinataria di un particolare finanziamento UE che si deve cercare di spendere anche questo entro l'anno, per evitare di perderlo. Già c'è stato l'invio di alcuni osservatori, per dir così, dell'Unione Europea, per verificare come si sta utilizzando o non utilizzando la quantità di fondi che sono stati destinati dall'Unione Europea. Dalla prima pagina della stampa torniamo invece sulle questioni politiche, ancora per qualche istante, prima della viabilità, perché Michele Brambilla ha intervistato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che nella prima pagina della stampa dice: Renzi vuole andare al voto. Dice anche che non teme un patto tra Renzi e Grillo, perderebbero entrambi la faccia. Questa la dichiarazione di Berlusconi, rilasciata appunto alla stampa in edicola questa mattina. Al nostro canonico come sta ci risponde con un non benissimo, che non è proprio nelle sue corde tradizionali, ma come vedremo Silvio Berlusconi è tutt'altro che dimesso. Così esordisce Michele Brambilla oggi sulla stampa, riferendo il suo colloquio con Berlusconi. Da Arcore ci racconta come sta vivendo questi giorni non facili. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra ultima tranche di questa rassegna stampa, grazie al supporto in regia di Filippo Aureggi, questa mattina è lui che rende possibile tutto questo. E allora, vi stavo segnalando sulla stampa di oggi il colloquio di Michele Brambilla con Silvio Berlusconi che, come dire, è un po' limitato nelle dichiarazioni per ovvi motivi su alcune questioni, cioè essendo lui stato condannato sta scontando appunto una pena per il reato di evasione fiscale e quindi fatalmente non può esprimersi, diciamo, con l'abituale libertà, con l'abituale verve che gli conosciamo, però qua e là insomma lascia trasparire a Brambilla più di una dichiarazione di rilievo, quantomeno appunto per le vicende politiche. Ad esempio sulla legge elettorale, dice Berlusconi a Michele Brambilla: il fatto è che Renzi mi ha chiesto di cambiare gli accordi per la decima volta. Vuole introdurre una variante, premio alla lista e non alla coalizione, che favorirebbe lui e penalizzerebbe il centrodestra. L'impressione di Berlusconi è questa, tutta questa fretta di Renzi che vuol far passare la legge elettorale prima di cose più urgenti come i provvedimenti sul lavoro e l'economia, tutta questa fretta, l'impressione che sia figlia di una volontà chiara, andare a votare presto. E allora se il patto scricchiola, dice Berlusconi, non è per nostra inadempienza, ma per una strategia del Premier, noi non vogliamo rompere il patto, si fa riferimento appunto al cosiddetto patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, che giura poi Berlusconi di non essersi preoccupato nemmeno dopo l'elezione del giudice costituzionale che è avvenuta grazie all'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, perché dice in realtà un patto tra Renzi e Grillo non converrebbe a nessuno dei due, lo pagherebbero caro alle urne, se non altro per interesse, chiude quindi Michele Brambilla, Renzi non tradirà secondo il rivale e un po' alleato Berlusconi. Ancora torna sulle questioni politiche Berlusconi in questa chiacchierata con Michele Brambilla al Senato, dice c'è una maggioranza anomala, si governano con 32 cittadini che erano stati eletti per opporsi alla sinistra. E poi apprendiamo sempre da questa chiacchierata che il cavaliere o ex cavaliere meglio non sta passando delle difficoltà per problemi a un occhio, dice l'occhio mi fa tribolare, ci confida facendoci tornare in mente un fatto di cui da un pezzo non si parla più, la statuetta che mi tirarono quella sera in Piazza Duomo, si ricorda, e dice come no, c'eravamo lì anche noi, ecco quella statuetta mi fa ancora male, ho rischiato di perdere un occhio sul quale bisogna intervenire continuamente, ma mi fa male anche nell'animo e lei capirà benissimo perché. Sui giudici, dice ancora Brambilla, l'ex cavaliere tace, al massimo ripete che è assurdo che lo abbiano condannato per frode fiscale perché in Italia nessuno ha pagato più tasse di me, e poi si dice sicuro che la Corte europea cancellerà le sentenze di condanna, per il resto sa che ogni parola in materia potrebbe costargli cara. Ecco, questo è uno degli obblighi che lo fanno star male, non poter dire tutto quello che pensa, e è un'altra cosa che, per usare un eufemismo, non lo mette di buon umore. E poi c'è un virgolettato di Berlusconi che dice a Brambilla: lo sa che alle 11 di sera i carabinieri vengono a controllare se sono in casa. Questo sulla stampa, alcuni tratti del colloquio di Michele Brambilla sulla stampa oggi in edicola, poco più oltre le vicende di Napolitano. Napolitano resiste, scrive la stampa, ma con una certezza: non sarà lui a sciogliere le camere. Le dimissioni restano in agenda, ma senza una data, quindi l'ipotesi di lasciare al termine del semestre italiano di presidenza della UE, che invece è sposata da altri giornali, qui secondo il servizio di Antonella Rampino è un pochino più sfumata. Questo sulla stampa di questa mattina. Cambiamo argomento Vi do intanto qualche segnalazione anche di altri giornali che peraltro riprendono con maggiore enfasi ancora vicende di cui vi ho dato conto. Alfano lascia picchiare Salvini, è il titolo principale del giornale. Il leader della Lega si ritrova in un campo nomadi ma senza polizia, per il ministro era un provocatore. Berlusconi prende tempo ma l'accordo sull'Italicum è più vicino, così scrive il giornale a proposito delle trattative sulla legge elettorale. E poi ancora le multe, la vicenda delle presunte multe a Ignazio Marino, sindaco di Roma. Le multe di Marino diventano un giallo, forse guidava la moglie, ma il sindaco di Roma grida al complotto, sono stati falsificati i dati. Questo sul il giornale di oggi. Mentre il Manifesto decide di dare il suo titolo principale alla manifestazione del pubblico impiego ieri a Roma, avviso pubblico, i lavoratori del pubblico impiego non ce la fanno più, paghe basse, tantissimi precari, contratto bloccato da 6 anni, ma Renzi e la ministra Madia non perdono occasione per attaccarli. Ieri in 100.000 hanno sfilato in corteo a Roma per dire basta, e poi CGL, CISL e UIL avvertono il Premier, dacci una risposta o sarà sciopero. Di tutt'altro tenore, naturalmente, rispetto al titolo che leggevamo sul giornale, il riferimento alla notizia che riguarda Matteo Salvini, segretario della Lega. Scrive il Manifesto: Salvini al campo Rom, una provocazione finita male. Su Libero ancora le vicende del Quirinale, Napolitano lascia a Capodanno, scrive drasticamente Libero. Chi sarà il prossimo presidente? Re Giorgio abdica, i partiti sono già in fibrillazione. Ecco che cosa accadrà, dice in prima pagina del Manifesto. Allora cosa accadrà? Pagina 5, vi diamo rapidamente conto delle schede che riporta Libero. Romano Prodi, il prof ci crede sempre, ma Renzi non vuole big. Poi ci sarebbe Walter Veltroni, punta al colle da una vita, ma di buono ha solo l'età. Mario Draghi, perché si dice se lo spread dovesse tornare su ci vorrà un super tecnico. Giuliano Amato, un uomo per tutte le stagioni, se si libera un posto lui c'è. Anna Finocchiaro, con un titolo un po' oscuro, si dice che però il suo ostacolo più grosso è il carrello dell'IKEA. E poi c'è una scheda intitolata Mister X, cioè donna o società civile, occhio all'outsider. C'è sempre l'outsider, il nome coperto che salta fuori all'ultimo. Potrebbe essere, ad esempio, scrive Libero, una figura come Roberta Pinotti, il cui nome gira già da mesi e appare ormai bruciato, oppure Sergio Chiamparino, che ci crede apertamente, tanto da essersi candidato. E poi c'è la famosa società civile che a Renzi fa venire l'orticaria, ma che gode di credito assai diffuso. Allora in quel calderone si potrebbe pescare, riferisce Marco Gorra, che ha redatto queste schede su Libero questa mattina, di andare a pescare tra Gustavo Zagrebelsky, a Stefano Rodotà, Gino Strada. Dice ci sarebbe soltanto l'imbarazzo della scelta. Questo il titolo di Libero. E poi una ultimissima cosa in chiusura: oggi 9 novembre, anniversario della caduta del muro di Berlino, una notizia storica che viene ricordata da molti quotidiani anche in prima pagina, così ad esempio Avvenire con una grande foto: 25 anni fa finiva la divisione di Berlino. Oggi nel mondo però ci sono altre barriere, scrive Giorgio Ferrari in prima pagina di Avvenire. E con questo è tutto per la nostra rassegna stampa, grazie e a risentirci tra poco.